La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Mi interessava proprio la chirurgia d'urgenza, quel lavoro lì, quel lavoro abbastanza, come dire, impegnativo, imprevedibile per certi aspetti, che si confronta con urgenze sempre diverse. Poi penso che questa voglia, che questa, insomma, tendenza verso quella medicina, quella chirurgia, abbia anche influenzato poi le mie scelte future. Bird of prey, bird of prey, flying high in the summer sky. Bird of prey, bird of prey, flying high, gently pass on by. Gino Strada è un giovane medico praticante. Lavora all'ospedale milanese Niguarda. Nelle corsie del pronto soccorso scopre la sua unica vera passione. Per caso, poi, finisce a fare il chirurgo sul fronte di guerra tra Pakistan e Afghanistan. Strada è giovane, si aspetta qualcosa, ma non sa ancora cosa. Io ero interessato a fare un'esperienza in un paese diverso dai cosiddetti paesi sviluppati. Volevo vedere che cosa significava, insomma, essere chirurgo e lavorare in uno di quei paesi dove la medicina non c'è, la chirurgia spesso ancora meno. E mi è capitato per caso di andare in una situazione dove sono venuto a contatto con i feriti di guerra, con le vittime della guerra. E che paese era il primo paese in cui è andato? Era il Pakistan, al confine con l'Afghanistan, in un ospedale che riceveva i feriti della guerra afghana. E com'è stata quella prima volta quando è arrivato lì, se lo ricorda? Mi ricordo che quando sono arrivato avevo già molta paura nell'arrivare, perché c'era la neve, il ghiaccio sulla pista e l'altoparlante che diceva inshallah atterreremo, quindi dice no, speriamo che atterriamo davvero, non sono inshallah, insomma. E poi di molta paura anche sul lavoro, perché mi ritrovavo di fronte situazioni che non avevo mai affrontato prima nella mia esperienza, diciamo, europea. Un femore spappolato da un colpo di Kalashnikov non è un'esperienza che un chirurgo ortopedico o traumatologo fa normalmente nel nostro ospedale, insomma. Per qualcuno gli è capitato, ma non è una routine, per cui chi fa il chirurgo addominale fa il chirurgo addominale, quando arriva un femore sfracellato chiama qualcun altro, lì ti trovi a dover fare tutto. E quindi ero spaventato, però sono rimasto subito affascinato da quella cosa. Beh, il passaggio successivo no, è stato quello di continuare con la Croce Rossa Internazionale, ho fatto più di 10 missioni con loro in differenti paesi. E poi 6 anni dopo è nata l'idea di fondare Maria Giuseppe. L'associazione di medici Emergency nasce nel 94 sull'onda del bisogno di Strada di curare le vittime della guerra e delle mine antiuomo. Una situazione tanto grave che riguarda milioni di persone nel mondo, giovani, vecchi, bambini. Raccontata così nel film Viaggio a Kandahar. Come ti chiami? Hamidullah. Com'è successo? Eri al fronte? No, non ero al fronte. Andavo alla piantagione e ho calpestato una mina. Dottoressa. Un momento, aspetta il tuo turno. Sono subito da te. Ti fa male? Sì, mi fa male. Riesci a dormire la notte? No, ma che, non riesco a chiudere occhi. Abbiamo un sedativo leggero. C'è rimasto del valio. Ti daremo una medicina, va bene? Grazie. Però devi aspettare. Che Dio vi benedica. Dottoressa, io ho perso la mano su una mina. Me ne date una nuova, per piacere. Monica, dagli un'occhiata. È tale quale l'altro giorno. Come hai fatto a perdere un arto su una mina? Camminavi a testa in giù? No, andavo a Kandahar a cercare lavoro. Lungo la strada ho visto una cosa di metallo. Senza pensarci ho fatto per raccoglierla. E questo è il risultato. Purtroppo non abbiamo protesi per mani e braccia. Io sono rimasto solo. Solo io sono rimasto. Eravamo 5 fratelli. Sono morti tutti sulle mine. Adesso ai miei genitori è rimasto un figlio solo. Ma sono ridotto così, un mutilato. La gamba l'ho persa anch'io su una mina. Qui alla Croce Rossa ci date solo la... Insomma, ci fate 2 iniezioni di penicillina al giorno, però non ci date mai le gambe. Dite sempre che arrivano domani. E invece no, non arrivano mai. Così non ho più la gamba e la mia famiglia chissà dove è finita. Sono solo, non ho più nessuno. Non ho più nessuno che mi aiuti. Dottoressa, io così non ci riesco ad andare avanti. Dovete fare qualcosa. Datemi una medicina per dormire. Io ho perso la mano su una mina. Datemi una mano nuova. Per favore, non posso lavorare, non posso fare niente. Monica, diglielo anche tu. Guarda che non è la prima volta. Qui non sistemiamo le mani, solo gambe e piedi. Se non avete le mani, allora datemi un piede. Decide tutto lui. Lascialo perdere. Le hai le gambe? Che ci fai con una gamba artificiale? Noi abitiamo nelle vallate intorno a Kandahar. Lassù è pieno di mine. La dobbiamo avere in casa una gamba di riserva. Strada è partito da Sesto San Giovanni. Conosce bene il ritmo della città operaia, la fatica di certe mattine, il rumore delle sirene della Magneti Marelli, della Breda. Ora però è lontanissimo. Ha un viso che sembra sempre arrabbiato, ma è pronto a sciogliersi in un sorriso e in un abbraccio. Titoli di giornali, una schiera di personaggi noti a fare da volano per l'associazione, una raccolta fondi continua. Emergency, nel giro di pochi anni, diventa importantissima in Italia. Si susseguono, a sostenere l'associazione, Fiorella Mannoia, Giovanotti, Elio Le Storie Tese, Ligabue e un'infinità di attori. Io ripudio la guerra. Io ripudio la guerra. Io ripudio la guerra. Sostengo Emergency. Alcuni di loro andranno a vedere l'ospedale afghano di Strada. Lo faranno anche molti giornalisti. E tutti torneranno a casa con le ossa rotte. Perché vedere in faccia il dolore è diverso dall'immaginarlo. Generale, dietro la collina ci sta la notte buia ed assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di 5 figli, venuti al mondo come conigli. Partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Fa più fermate, neanche per pisciare, si va dritti a casa senza più pensare che la guerra è bella anche se fa male, che torneremo ancora a cantare e a farci fare l'amore, l'amore dalle infermiere. È scappato, è vinto, è battuto dietro la collina. Non c'è più nessuno, solo aghi di pino e silenzio e funghi. Vuole da mangiare, vuole da seccare, da farci il sugo quando viene Natale. Quando i bambini piangono e a dormire non ci vogliono andare. We'll be right back. è arrivato in Afghanistan. È la sua prima volta, iniziata ormai 20 anni fa. Dietro questa scelta c'è un senso chiaro, il bisogno di curare chi altrimenti non potrebbe essere curato. È l'ideale massimo per chi fa medicina e non è un caso che Strada sia tanto amato dai giovani. Sì, ci credo ancora oggi, cioè un progetto sempre più necessario. Viviamo in un mondo in cui milioni, anzi diciamo un paio di miliardi di persone non hanno nessun accesso possibile alle cure. E questa è una tragedia immane, insomma, per cui ce ne vorrebbero 20.000 di organizzazioni come Emergency. È vero che, non so se questo numero è esatto, però qualcuno mi ha detto che Emergency è stata in grado di salvare, di curare oltre 4 milioni di persone, e forse è una cifra a ribasso? No, noi abbiamo curato più di 4 milioni e mezzo di persone dal 94. Dico curato, non voglio usare un termine un po' presuntuoso per salvare la vita, perché in molti casi non si è trattato di salvare la vita, ma semplicemente di fornire le cure. Per fortuna non tutte le situazioni sono potenzialmente mortali, ecco, c'è sempre in ballo la vita. Però c'è sempre il bisogno di essere curati, un bisogno che noi non abbiamo mai disatteso, curando chiunque senza nessuna pregiudiziale, senza discriminazioni politiche, religiose, di sesso, di etnia. L'abbiamo fatto semplicemente perché crediamo che le persone che hanno bisogno di essere curate devono vedere quel bisogno soddisfatto, e la cosa finisce lì. Ci sono stati dei momenti in cui si è detto potevo fare di più? Ma questo ce lo si dice ogni giorno, migliorare continuamente è un obbligo se si vuole essere seri nel proprio lavoro, su questo non ho dubbi. Ci sono stati momenti diversi, ci sono stati momenti, vuol dire, anche di sfiducia, anche di scoramento, ci sono stati momenti anche molto irritanti. Per esempio, io non ho mai sopportato e non sopporto tuttora alcuni tentativi che sono stati fatti di etichettare politicamente Emergency, di costringere in un ghetto come se fossimo degli estremisti radicali, quando invece, come dire, i punti di riferimento di Emergency, anche proprio culturali, insomma, politici se vogliamo usare questa parola, sono tra i più importanti documenti scritti nella storia dell'umanità, insomma, dalla Dichiarazione dei diritti umani allo Statuto dell'ONU, alla Costituzione italiana, al manifesto di Einstein Russell, sono questi. Solo che oggi, quando si citano queste cose come dei principi, si viene guardati con sospetto dai mercanti e usurai di oggi, insomma. Gino Strada è un uomo forte, spigoloso, determinato nelle sue idee. Non fa segreto d'essere contro la guerra, come in questo intervento in una puntata di Anno Zero. Non si può cercare di abbellirla, questa è giusta, quell'altra meno, questa qui la facciamo così. Lui diceva, si può solo abolire. E voglio dire, sarà un'utopia. Le auguro di riuscirci presto. Ma non ci riuscirò io, certamente. Ci riusciranno, allora, come dire, ci riuscirà il genere umano. Speriamo. Se in molti cominceranno a tentarla così, ma sa, le stesse cose si dicevano qualche centinaia di anni fa rispetto alla schiavitù. Sembrava una follia l'abolizione della schiavitù, è successa, anche se ci sono ancora altre schiavitù nel mondo. Ma lei non crede che sarebbe molto meglio un mondo nel quale non si usa la forza e non si usa la violenza? Sì, ci credo. E come ci arriviamo se continuiamo a praticare la violenza? Attraverso Emergency sicuramente. Ma non attraverso Emergency. Allora, Emergency. Su, via, sia serio. Vabbè, ah, sia cioè, serio. Allora lei dice, io ma ci credo, serio. Però è una barzelletta. Io dico, guardi, il pacifismo unilaterale ha solo portato alla sopraffazione di chi credeva al pacifismo nei confronti di chi invece continuava a usare le armi. The kind people have a wonderful dream. Margaret Guillotine. La prima volta di Gino Strada ha inizio in Afghanistan e continua in un giorno di nebbia milanese, quando con la moglie Teresa definisce il progetto di vita. Questa è la storia del primo ritorno a Milano dopo un lungo soggiorno afghano. Io avevo maturato, dopo sei mesi là, avevo maturato delle convinzioni e avevo deciso che avrei fatto quel lavoro lì. E quindi comunque il ritorno alla frenesia milanese Diciamo che avendo già deciso di sottrarmi ci sono poi stato poco, È stato più, come dire, impegnativo il discuterne alla fin fine, l'essere d'accordo con Teresa su questa scelta, ecco, perché questo ovviamente scombussolava gli equilibri familiari, ma nessun impatto drammatico con la città di Milano, dalla quale sono scappato, credo, non so, un mese o due mesi dopo. Ecco. Senta, dottor Strada, ogni medico porta con sé dei ricordi molto forti. Lei ne ha qualcuno che ci vuole raccontare? Invecchiando, come si dice, ma forse si acquisisce un po' di saggezza. Ecco, a me il ricordo che di fatto è ricorrente e che non riesco proprio a mandar giù è quello di persone a cui la vita, per come noi la intendiamo, anche nelle sue cose più belle, eccetera, è negata come possibilità, semplicemente perché non c'è una possibilità di cura. Questa cosa è estremamente brutta da sopportare. Io mi chiedo a volte come facciano a sopportarne il peso quelli che prendono le decisioni, insomma, no? I cosiddetti potenti, quelli dalle cui decisioni in un senso o nell'altro dipendono per l'appunto le vite di centinaia di migliaia o di milioni di persone. Io continuo a vedere tanti flash di tanti facce, di tanti pazienti per i quali non si è potuto fare nulla perché non c'era nulla disponibile, insomma, avrebbe dovuto esserci. E quello lì è un senso di colpa più che un ricordo. La guerra non ha bisogno di essere, come dire, drammatizzata, abbruttita, resa televisivamente in una miniserie, è quello che è. Basta farsela raccontare da chi l'ha vista. Io l'ho vista da un'ottica particolare, ma per esempio molti, i nostri nonni o i bisnonni di quelli che oggi hanno molti più anni di me, l'hanno vissuta, basta farsela raccontare. Si mettono insieme un po' di episodi e si capisce di com'era insensata, oltre che crudele e difficile, la vita durante la guerra. Come c'era, come dire, un abbruttimento, un peggioramento degli esseri umani. Un dominare della violenza e dei sentimenti più ignobili anziché delle cose più belle. A me è bastato personalmente, basterebbe quello per essere contrario alla guerra, insomma, al di là di ogni ragione etica. La prima volta termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo che le puntate sono scaricabili dalla nostra pagina internet. Basta cercare La prima volta Radio 24 su un qualsiasi motore di ricerca per arrivare a noi. Scriveteci le prime volte che vorreste sentire e anche se avete qualche prima volta da raccontare all'indirizzo laprimavolta@radio24.it. Grazie e buona domenica a tutti da Cristina Carpinelli. That you dare to dream. above that chair.